edizione. Le 6:12:42, vi abbiamo riferito alle parole del Presidente del Consiglio, Mario Monti, il quale dice che la maggioranza degli italiani ritiene necessaria la riforma del mercato del lavoro, parole pronunciate poco fa a Tokyo. Vi abbiamo anche detto che si è detto fiducioso, che la riforma passerà. Tutto questo sta avvenendo, e questo abbiamo omesso di dirvi, che nella sua visita in Giappone, dove Monti ha incontrato il Ministro delle Finanze Yun Azumi. Poi terrà una conferenza al Nikkei, il colosso nipponico dell'informazione economico-finanziaria. Sempre oggi sono previsti una serie di incontri con la comunità economico-finanziaria giapponese e italiana nel paese. Nel pomeriggio sarà ricevuto dal premier Yoshihiko Noda. Di questo parleremo più avanti nel corso di prima edizione. Adesso c'è una pausa per la viabilità. Ci ritroviamo subito dopo e faremo un punto sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. Sono le 6:16:10. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, iniziamo a dare un'occhiata a quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera. Da segnalare che oggi le aperture in linea di massima sono tutte o quasi tutte concentrate sulla questione della riforma elettorale, su questa prima intesa sulla riforma elettorale. Il Corriere della Sera: riforma elettorale prima intesa, niente coalizioni obbligatorie, premio al partito con più consensi. La Repubblica: accordo sulla riforma elettorale. La Stampa: intesa tra i partiti per cambiare la legge elettorale. Insomma, più o meno sempre su quello siamo. Anche il Messaggero: accordo sulla legge elettorale. Quindi evidentemente si è scelto, per così dire, che il titolo è quello e il tema è quello. Il Corriere della Sera pubblica anche un commento a firma di Massimo Franco: il segnale distensivo, aperta parentesi, e l'odore di voto, chiusa parentesi. Più o meno, evidentemente, almeno dal titolo, il commento di Claudio Tito su Repubblica va sulla stessa linea: la paura di perdere. E Luigi La Spina invece sulla Stampa firma un commento: tutto porta ad un Monti bis, forze politiche deboli. Questo è il quadro. Però vogliamo iniziare dal Corriere della Sera, perché c'è una vicenda interessante. Questo altolà del PDL sul tema della corruzione. In realtà non è esattamente questa la novità, è la novità è come è arrivato questo altolà. Perché? Perché Cicchitto del PDL contesta la linea del ministro Severino sulla corruzione. Però vi leggiamo quello che racconta il Corriere. Il PDL dall'altolà al governo sul disegno di legge anticorruzione contesta la linea del ministro della giustizia Paola Severino. Cicchitto chiama il Presidente del Consiglio a Seul proprio mentre Obama loda le misure adottate dall'esecutivo italiano. Monti al telefono, si perde così le parole del Presidente americano. Quindi storia interessante. Centropagina del Corriere, questo Ibra contro Messi, sfida stellare stasera a San Siro, Milan-Barcellona di Champions. E ampio spazio sui quotidiani naturalmente alla vicenda di Lusi, Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, che collabora con i PM, chiama in causa i vertici. Il pezzo sul Corriere della Sera lo firma Fiorenza Sarzanini. Ricordare è una storia che vi abbiamo anche raccontato nella giornata di ieri, la vicenda la vicenda di Pechino, che promette in Italia per investire. È questa la questione alla quale dedica l'apertura il Sole 24 Ore: investimenti, la carta cinese. Monti incontra Hu Jintao, che promette più attenzione agli asset italiani. Poi vede Obama: bene i vostri progressi. Il premier a Tokyo oggi. al via la due diligence tra Itachi e Ansaldo Breda, titola anche il Sole 24 Ore. Orsi, parliamo di Finmeccanica qua, è il piano di dismissioni. Il commento di Guido Gentili a tutta questa vicenda è va sotto la testatina credenziali da conquistare ed è da Vendi Italia a Investi Italia, quindi appunto dalla vendita insomma appunto dell'Italia all'investimento nel nostro paese. Altre cose da segnalare sul Sole 24 Ore: la vicenda della creazione della maggiore banca spagnola. Caixa compra Civica, nasce la più grande banca della Spagna, superato BBVA in termini di attivi. Il commento è a firma però di Donato Masciandaro ed è un commento piuttosto critico, si intitola Miopia spagnola. Perché scrive Masciandaro, non è una buona idea perché ancora una volta, dimenticando gli insegnamenti della crisi, si autorizzano operazioni che in prospettiva possono essere rischiose non solo per il paese che le promuove, ma anche per la regione, in questo caso l'Europa, nel cui mercato l'operazione bancaria si compie. Poi il commento di Masciandaro prosegue all'interno a centropagina del Sole 24 Ore: la promozione dell'Ocse per la riforma del lavoro. Ocse, bene la riforma del lavoro e gli investitori che dicono flessibilità cruciale. Fornero che aggiunge misure imprescindibili. Parla anche, c'è una sorta di riassunto su quelle che sono le dilazioni il fisco a rate, dilazioni da 20 miliardi. Il paese del fisco a rate, Roma in testa, si potranno pagare a rate le imposte accertate fino a 20.000 euro con dilazioni per cittadini e imprese fino a 6 anni. A Roma il record delle richieste con 2,6 miliardi su un totale nazionale di 19,4. Segnalare anche in merito alla vicenda dei fondiari Assai, una vicenda che incrocia questioni giudiziarie, questioni finanziarie. Nuovi interrogatori ieri a Milano, la procura che dice su Fonsai, quadro più complicato del San Raffaele. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. La Repubblica, che come si diceva apre anch'essa con l'accordo sulla riforma elettorale, a centropagina si parla del nuovo catasto. Ne abbiamo lungamente trattato, ne avete lungamente letto sulle pagine anche del Sole 24 Ore. Naturalmente si passa dai vani ai metri quadri, ormai lo sapete. E Repubblica titola: con il nuovo catasto, stangata sulla casa, cambia il calcolo dai vani ai metri quadri. Questo il quadro per quanto riguarda la Repubblica. Da segnalare naturalmente che un po' tutti i giornali riportano sulla prima pagina la vicenda del procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli. Come sapete, sta facendo un giro per le città presentare il suo libro e puntualmente nelle città arrivano i manifestanti in Ottav a protestare dopo che il 26 di gennaio dopo che in gennaio ha fatto arrestare una serie di persone, 26 se non sbaglio, appunto legate al movimento Ottav per le violenze. Bene, ieri sono riusciti addirittura in Ottav ad entrare nel comune di Milano, nella sede del comune di Milano. Da Caselli ai partigiani, l'ultimo affronto dei Ottav, è il titolo del commento a firma di Miguel Gotor che riguarda appunto questo caso. E La Stampa riporta, oltre all'intesa tra i partiti per cambiare la legge elettorale, una grande foto in prima pagina del Papa, la vana di Fidel in festa per il Papa, appello di Ratzinger per la libertà, ma non vede i dissidenti. A centropagina la questione di Hu Jintao, i maggiori investimenti in Italia, e c'è anche presente anche un dossier, si parla anche di un dossier, energia, high tech e banche nella lunga marcia di Pechino. Anche la stampa riporta in retroscena: Barack loda Super Mario, ma il professore è al telefono con Cicchitto, quindi anche appunto la stampa riporta questa questione. Veniamo al Messaggero titola sull'accordo sulla legge elettorale, commento di Francesco Paolo Accasavola sul bipolarismo forzoso da superare, titolo su Ugintao e Monti. A centropagina ancora la vicenda di Lusi sui vertici della Margherita, che sapevano tutto dei rimborsi, e poi una vicenda della quale si trattava ieri. C'era stata una sorta di allarme perché rischiava di rimanere a secco il fondo per le calamità naturali. Perché rischiava di rimanere a secco? Perché un emendamento alla Camera aveva modificato la legge che prevedeva copertura automatica con un aumento delle accise della benzina. Ebbene, sia la tassa sulla calamità, la benzina a rischio aumento, quindi si torna alla versione originale. Messaggero, a proposito di calcio, ci porta la storia di Stramaccioni, il dottore in legge da Montesacro alla panchina di Mu, perché essendo il quotidiano romano ci racconta la storia di questo allenatore che è romano, appunto, di Montesacro. E da segnalare sulla vicenda Alcoa la protesta e l'oltraggio, gli operai che danno fuoco ad una bandiera italiana. C'è il Messaggero, pubblica in prima pagina la foto. Questo il quadro, almeno dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Noi ci fermiamo, ci risentiamo tra poco con il giornale radio e a tra poco. Prima edizione. Le 6:33 minuti e 14 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, il momento d'Italia in controluce. Italia in controluce. E l'Italia che si è appena svegliata è l'Italia in diretta, che ha bisogno dunque di informazione. Italia in controluce il 28 marzo. Sono Daniele Biacchessi. I disastri ambientali avvenuti in Italia hanno da oggi una memoria storica, una memoria importante soprattutto per il futuro, diciamo il futuro della memoria, che viene raccontata da Maria Luisa Pezzali. Questa è la diga a doppia curvatura più alta del mondo, la diga del Baion. Creerà un lago artificiale capace di 150 milioni di metri cubi d'acqua. Buona Longarone, quando uscirai i miei figli prima vivi dopo 7 minuti, nell'acqua. Buonasera. Forti scosse di terremoto sono state avvertite pochi minuti fa in Basilicata, nella zona del Vulture vicino Potenza. Non si conoscono ancora le conseguenze delle scosse. Il personale dell'ospedale. Ecco, dobbiamo adesso cercare il collega per spiegare. Corso, bambini, donne, anziani. Servizio. È un momento veramente drammatico. E da tutta la provincia di Potenza arrivano le ambulanze e le macchine. La Biblioteca Nazionale di Firenze, particolarmente colpita dall'alluvione, ha interessato soprattutto gli studenti, come era naturale, che si sono prodigati per salvare il maggior numero possibile di libri. Ci sono dei casi veramente disperati, persone anziane, cieche, che non hanno nessuno. Quindi noi dalla mattina alla sera facciamo la scuola a portare il puro necessario. L'Aquila il 20 settembre. Il 20 settembre a Caltezza. Quindi è caduto un palazzo, ci sono delle persone dentro che urlano e sente tutta di cazzo. È crollato un palazzo. Alluvioni, terremoti, frane. Catastrofi che negli anni hanno segnato la vita di intere popolazioni. Catastrofi troppo spesso dimenticate. Ricostruirne la memoria storica e scientifica significa promuovere quella cultura della prevenzione invocata ad ogni disastro, ogni volta che ci si trova alle prese con il triste bilancio delle vittime. Sulla base di queste considerazioni è nato EDIS, il Centro Euro-Mediterraneo di Documentazione per la Conoscenza e la Memoria degli Eventi Estremi e dei Disastri. L'obiettivo è quello di creare una vera e propria memoria storica dei disastri naturali. EDIS nasce a Spoleto per iniziativa della storica dei terremoti e dell'ambiente Emanuela Guidoboni. È un problema di conservazione della memoria, ma anche di unione dei dati sui disastri del passato con una visione scientifica del problema. direi che è un tentativo di unire due culture, quella storica che si intreccia con la storia dei siti, quindi con la storia anche del nostro paese, e quella scientifica che analizza i disastri e ne trova le cause. Perché le catastrofi passano presto nel dimenticatoio? Questo è un problema che riguarda, credo, un po' anche la nostra cultura e la psicologia sociale del paese. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia, che è un paese sviluppato, non ha dato ancora una risposta culturale, diffusa e accettata sul problema dei rischi ambientali. C'è da un lato una sorta di rimozione del problema e dall'altro una cultura che tende un po' a vivere la giornata. Italia in controluce, queste e tutte le altre puntate scaricabili in podcast su radio24.it. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Vi ricordo oggi uno speciale sul film, nuovo film di Marco Tullio Giordana, che potete vedere in tutte le sale cinematografiche il 30 di marzo, che racconta una storia importante, cioè la storia dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Sono le 6:37 minuti, 42 secondi. Veniamo dunque alla visita del Presidente del Consiglio Mario Monti in Asia e in Giappone in particolare. Dunque ci colleghiamo con Stefano Carrer, inviato in Giappone del Sole 24 Ore, inviato a Tokyo. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, Monti ha incontrato il ministro delle finanze giapponese e poi al termine ha parlato anche di mercato del lavoro. Sì, diciamo, io in questo momento sono alla Keidan Ren Hall, che è la sede della Confindustria giapponese. Monti sta incontrando in questo momento il vertice dell'organizzazione degli industriali e ha appena terminato una conferenza davanti a 600 persone nell'auditorium del quotidiano economico Nikkei. Tra l'altro, appunto, ha parlato di riforma del mercato del lavoro, ha detto che appunto si attende che passerà e ha fatto una dichiarazione interessante, cioè che secondo lui le rigidità che finora hanno caratterizzato il sistema Italia sono paragonabili un po' a delle barriere non tariffarie che hanno scoraggiato gli investimenti stranieri. Questo è importante perché nel pomeriggio lui incontrerà il primo ministro giapponese Noda, che gli chiederà di ammorbidire, di cambiare la posizione italiana sulla questione dell'avvio dei negoziati tra l'Unione Europea e il Giappone su una partnership economica. Perdonami, Stefano, quindi il paragone è come se fossero dei dazi all'ingresso, così ha detto Monti, all'ingresso delle merci in sostanza. Diciamo agli investimenti stranieri, a una possibilità di maggiore sviluppo e crescita economica, e siccome la posizione italiana è ancora relativamente contraria all'avvio di negoziati di libero scambio col Giappone, proprio perché noi chiediamo ai giapponesi di eliminare queste barriere non tariffarie, questo paragone appunto assume in questo contesto un significato, diciamo, piuttosto importante. Ecco, ci stai parlando dell'agenda di giornata del Presidente del Consiglio, che cosa prevede? Sì, dunque, dopo questo incontro con i vertici di Confindustria c'è un incontro con la comunità italiana, poi l'incontro al Cantei, la residenza del primo ministro, con Noda, e alla sera una cena con i banchieri e asset manager giapponesi. Certo, banchieri e asset manager giapponesi hanno un atteggiamento molto scettico sui problemi che affannano l'Europa. In particolare si sono alleggeriti delle posizioni sui bond di tutta l'Europa, e probabilmente appunto Monti cercherà di sollecitarli, insomma, ad avere un atteggiamento più positivo. Monti nella sua conferenza ha detto che la crisi è quasi terminata e che l'Europa uscirà rafforzata e non indebolita, proprio perché avrà una migliore governance. Allora sì, Stefano, quindi mi sembra di capire che quindi da quel che ci hai detto, dallo scetticismo degli investitori giapponesi fino adesso, insomma, la visita di Monti possa essere salutare. Sì, no, assolutamente, i giapponesi sono molto interessati a, proprio a Monti come persona, non solo come premier italiano, ma anche come portavoce informale dell'Europa, perché lui è il primo leader europeo che viene in Giappone quest'anno, e sono anche molto interessati a quello che fa l'Italia, proprio perché Italia e Giappone hanno problemi simili: alto debito, problema della crescita, problema della sostenibilità fiscale. Vi faccio un esempio: qui si rischia una crisi politica perché il governo vuole aumentare l'IVA dal 5 all'8%, quindi sentire che l'Italia l'ha portata al 21 proprio per uno sforzo molto importante per arrivare a una sostenibilità fiscale a lungo termine, per loro è una cosa che può entrare proprio nel dibattito politico giapponese in senso, come punto di riferimento importante. Grazie, grazie dunque a Stefano Carrer, che è inviato del Sole 24 Ore a Tokyo, e buona giornata. Noi cambiamo decisamente argomento adesso. Ieri vi abbiamo raccontato, la storia era su tutti i giornali, di Emilio Fede, che si sarebbe visto rifiutare il deposito di 2,5 milioni di euro da una banca svizzera perché di provenienza incerta. Andrea Viali lo ha intervistato. Non c'è una sola virgola vera in tutta questa storia. Io non sono mai andato in una banca svizzera, mai, a parte quel giorno, cos'era, di aprile, adesso non mi ricordo più, quando ci fu la vicenda dell'amore. Poi un Emilio Fede che gira con 2,5 milioni andata e ritorno dalla traversa dogana, ti pare possibile? Ti pare possibile che un direttore come Emilio, una persona come Emilio Fede, anziché correre rischi di due dogane, non li porti a Monte Carlo, che è il suo habitat di casinò, dove non c'è manco un controllo, perché non c'è la frontiera? Una notizia completamente destituita di fondamento dall'inizio alla fine, e questo ti dirò che mi fa veramente paura. Non mi preoccupa, mi fa paura. Ma chi ci sarebbe dietro? Esiste evidentemente una organizzazione, una strategia per colpirmi moralmente e professionalmente, probabilmente con la complicità di, ci sono, come li chiamano, i servizietti della toilette deviati. Servizi manovrati quindi da un mandante politico, mi sembra di capire. Passo parola. Prima o poi scopriremo. Guarda, metto in campo tutto, spendo tutto quello che posso spendere, ho mobilitato tutti, perché ti assicuro che entro 48 ore quello la chiappo per il collo. Questa è l'intervista del nostro Andrea Viali ad Emilio Fede. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede su strade e autostrade. Poi parleremo della visita del Papa a Cuba, perché c'è un aggiornamento importante che sta arrivando in questi minuti. Prima edizione. Sono le 6:46, è il momento appunto di parlare della visita del Papa a Cuba. Come vi dicevamo prima della viabilità, ci sono degli aggiornamenti importanti, dunque ci colleghiamo con la nostra Katia Caramelli. Katia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Fidel Castro, queste le ultimissime, incontrerà il Papa, se ne è parlato tanto in questi giorni, poco fa un sito ufficiale cubano ha confermato la notizia. Un incontro che dovrebbe essere su temi prettamente spirituali, nei giorni scorsi si è parlato tanto di una possibile conversione di Castro, ormai malato, 85enne. C'è invece già stato l'incontro con il fratello Raul, vestito nero, camicia bianca, cravatta bordeaux. Raul Castro ha accolto il Papa al Palazzo della Rivoluzione a L'Avana e lo ha guidato poi fino alla sala dove è cominciato un colloquio privato. 40 minuti, una lunghezza importante di faccia a faccia, durante i quali ha riferito il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, oltre che della situazione del popolo cubano, si è parlato anche delle attese della Chiesa cubana. E come segno di apertura il pontefice ha chiesto che il Venerdì Santo venga riconosciuto come giorno festivo. Ricordiamo che 14 anni fa, dopo la visita di Wojtyła e un'analoga richiesta, questo avvenne per il Natale. Non si sarebbe invece affrontata la questione dell'embargo all'arrivo del Papa, lo ricorderete, Raul Castro aveva fortemente attaccato gli Stati Uniti. Sì, Katia, da questo lato in realtà la posizione della Chiesa, del Vaticano, è molto chiara da tempo, cioè una posizione piuttosto contraria, no? Esattamente, lo ha ribadito anche padre Federico Lombardi, la posizione della Santa Sede è nota, il Vaticano Vaticano ritiene che non abbia raggiunto l'embargo i risultati utili, anzi abbia contribuito ad aumentare le difficoltà della popolazione. Ricordiamo anche che c'è molta amarezza tra i dissidenti cubani perché non ci sarà l'incontro con loro, anche se assicurano dal seguito papale Benedetto XVI avrebbe voluto vederli, ma il regime si è opposto e a quel punto anche i vescovi cubani hanno detto di no, visto che sono impegnati ormai in una difficilissima opera diplomatica. Ecco Katia, invece dal lato di quello che è successo ieri, alla fine le parole pronunciate ieri durante la messa a Santiago, della quale abbiamo accennato nel corso della giornata, sembra che a questo punto siano le cose più forti che siano uscite al momento dal, come dire, da questa visita del Papa, insomma parole sulla libertà che pur dette in un contesto religioso hanno una valenza politica fortissima. Sì certo Simone, perché dobbiamo dire che questo viaggio a Cuba di Benedetto XVI è uno dei viaggi più difficili dal punto di vista diplomatico, quindi tutte le parole, tutti i discorsi sono pesati e quindi ci sono anche dei riferimenti velati in tutti i suoi discorsi. Chiaramente lui si sofferma sulla libertà religiosa, che comunque è una richiesta della Santa Sede forte, ma per libertà poi intende libertà più generali e riconoscimento dei diritti umani anche per quanto riguarda poi proprio i dissidenti, che appunto non incontrerà ma le cui ragioni sicuramente il Papa sposa. E grazie alla nostra Katia Caramelli per questi aggiornamenti appunto sulla visita del Papa a Cuba. La notizia insomma ce l'ha data in apertura di collegamento e lo avete sentito poco fa. In sostanza lo stesso Fidel Castro avrebbe annunciato che incontrerà Benedetto XVI, questo è quello che ha reso noto un sito ufficiale cubano. Naturalmente si è in attesa tanto di conferme quanto del fatto che questo avvenga. Ultima notizia prima di chiudere, che arriva una dichiarazione che arriva dagli Stati Uniti, è arrivata proprio poco fa, una dichiarazione dell'FBI di Sean Henry, che è il numero uno dell'FBI per la lotta al crimine sul web, che dopo 20 anni lascia il suo posto e dice: nella partita in corso contro gli hacker gli Stati Uniti non stanno vincendo, una delle grandi partite globali, per così dire. Noi chiudiamo qua questa puntata di Prima Edizione. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Viola Bottoni in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Una buona giornata. Ci risentiamo con il giornale radio delle 7. Volendo mi trovate anche su Twitter. Simone Spezia si scrive con la T. Buona giornata.